Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Eshkol Nevo è uno dei più brillanti scrittori israeliani della nuova generazione, insomma quella venuta dopo Amos Oz, Yoshua, David Grossman, diciamo la generazione dei quarantenni, che comprende per esempio anche Edgar Keret. Di Eshkol Nevo il romanzo più noto è forse La simmetria dei desideri, ora è in libreria con Soli e perduti, pubblicato da Neri Pozza con la traduzione dall'ebraico di Raffaella Scardi. È un romanzo che ha apparentemente, diciamo, una trama semplice. Siamo in una cittadina immaginaria di Israele dove deve essere costruito un mikveh, ossia un bagno rituale finanziato da un ricco ebreo americano, diciamo in onore della moglie che è appena morta. Intorno a questo evento si muovono una serie di personaggi con un grande, diciamo, gioco degli equivoci. Allora, vediamo un po' di questi personaggi. C'è Moshe Ben Zuk, che è il braccio destro del sindaco, che fra le altre cose, diciamo, rimpiange un amore di gioventù. È lui a identificare il luogo dove costruire questo mikveh, il quartiere periferico Siberia, dove sono stati concentrati tutti gli immigrati dalla Russia. È un quartiere però, insomma, lasciato un po' al suo destino. Poi c'è Naim, l'imprenditore che segue i lavori, che viene arrestato. Qui, insomma, si capisce che il libro è anche un po' grottesco, surreale, perché sospettato di puntare il suo binocolo da bird watching su una base dei servizi segreti. Insomma, invece di guardare gli uccelli, spierebbe i soldati dell'esercito israeliano. Poi ci sono Anton e Katia, che è una coppia russa in crisi. Sentiamo come ci parla di questo romanzo Eshkol Nevo. נראה לי שכדאי, יהיה הזמן שנגיד כמה מילים על הבניו ריטואל הזה, שהבינו מה מדובר. זאת אומרת, המקווה זה לא סתם בניו ריטואל. Innanzitutto vorrei chiarire alcune cose sul mikveh. Non è un semplice bagno rituale. È il luogo dove la donna torna a purificarsi prima di avere rapporti sessuali. Tutti sanno quindi che se una donna si trova lì è perché le è finito il ciclo e sta per fare sesso con suo marito. È un luogo fisico, molto erotico. In merito ci sono discussioni sul ruolo della donna, o meglio ancora, sul possesso del proprio corpo. Il libro gira tutto intorno all'incomprensione. Conosci la canzone di Elvis Costello, Don't Let Me Be Misunderstood? In questo caso si parla di immigrati russi che non sanno cos'è un mikveh. Questo bagno rituale che, quando viene costruito, prende significati e forze a sé stanti. In questo romanzo si percepisce una certa malinconia, ma è anche vero che è presente con forza anche l'erotismo. Mi riferisco per esempio alla storia di Moshe Ben Zuk, innamorato di Ayelet, e che ancora a distanza di tanti anni la pensa, ma anche al rapporto che hanno Anton e Katia, che sono questi due immigrati dalla Russia, ormai di una certa età, per i quali comunque c'entra l'erotismo e il sesso, fa parte del loro insolito rapporto. Come mai? Esiste un legame tra malinconia ed erotismo. Proprio da questa solitudine, dal fatto che i protagonisti sono soli e perduti, nasce il loro anelito all'unione, il contatto anche fisico. Per esempio, Moshe Ben Zuk, il protagonista, che è tornato alla religione, quando fiuta la presenza della donna vicino a lui, viene di nuovo travolto dalla passione. Effettivamente sì, questo è un libro erotico. Me ne sono reso conto mentre lo scrivevo. Un po' tutti i personaggi di questo romanzo, oltre a essere appunto soli e perduti, come dice il titolo, sembrano un po' fuori posto. Per esempio Moshe si converte, diciamo, all'ebraismo ortodosso, nel senso che decide di andare a vivere in questo paese immaginario e quindi cambia totalmente la sua visione delle cose. C'è invece Naim, diciamo un muratore arabo, che cambia il nome in ebraico per cercare di fare più affari, ma è come se volesse cambiare anche se stesso, come se non si trovasse bene in quella sua collocazione umana. E poi ci sono appunto Anton e Katia, che vengono strappati dalla Russia, si trovano in un posto a loro estraneo. Hanno tutti questa sensazione di estraneità, di dove sono e di chi sono. Io non decido di scrivere i miei personaggi e i miei libri in maniera consapevole. A distanza di 2 anni, adesso che il libro è uscito da abbastanza tempo, posso riflettere sul fatto che forse anch'io, nella mia vita, mi sentivo in questo modo, fuori posto. Ma c'è anche un discorso più ampio riguardante la società israeliana che ti mette continuamente di fronte a questo dilemma. Io appartengo a questa società così diversificata? Cosa ho in comune con gli arabi israeliani o con gli ebrei religiosi di un quartiere ultraortodosso di Nei Brak? Appartengo a questa società? Tutti vi appartengono? Mi disturbano queste diverse appartenenze o mi piacciono? È evidente che in questa società non tutti si sentono ugualmente a casa, in questa casa nazionale che è lo Stato di Israele. Parlando nello specifico di alcuni personaggi, per esempio la coppia Anton-Katia hanno un rapporto molto bello, molto profondo, in cui ci sono delle mancanze, ma è un legame profondo, e c'è anche la presenza di questo nipote. Che cosa rappresenta per loro essersi trasferiti dalla Russia in questo paese immaginario, appunto, di Israele? Anton bocher lavol le medina שילו כשורה עליו בשום צורה לכאורה לא היה אמור להרגיש שייך. Effettivamente Anton non è legato in alcun modo al paese degli ebrei, non essendo lui ebreo. Non ha niente a che fare con questo luogo, che trova di fatto semplicemente ridicolo. È venuto per un motivo, Katia. Katia è per lui la risposta alla domanda: cos'è l'appartenenza? La relazione è l'appartenenza. La relazione è il luogo dove noi ci troviamo giusti, bene, in questo romanzo. Per esempio, questo vale anche per Daniel, per il quale Anton non è un vero nonno. È l'unica persona con la quale può parlare. Il nonno è la sua appartenenza. In questo romanzo, Soli e perduti, nel concetto di relazione, troviamo sia la definizione dell'identità sociale, sia il senso di appartenenza. A proposito di appartenenza, in questo romanzo si immagina una sorta di quartiere di questa città chiamato la Siberia, dove vengono appunto trasferiti tutti questi immigrati dalla Russia. È un quartiere che rimane separato, non è curato, nessuno si preoccupa di loro, rimangono veramente estranei a tutto il resto della comunità. Perché hai voluto sottolineare questo aspetto? C'è, come dire, anche una critica sociologico-politica, oppure è semplicemente frutto della fantasia narrativa? Ci sono 2 ragioni. Una più personale. Da bambino ho cambiato città molte volte e questo continuo spostamento mi definiva, anche se era solo un passaggio da una città all'altra, da Gerusalemme ad Haifa. Era per me una sorta di migrazione. E come tale io la vivevo. L'altra motivazione va ricercata nella migrazione russa. Alla fine degli anni 90 c'è stato un enorme spostamento di 1 milione di russi in Israele, di cui nessuno ha mai parlato a livello letterario. Nessuno ne ha mai scritto. Come se si dovesse essere sovietici per poter scrivere di questo argomento. Io, al contrario, ero attratto, incuriosito. Mi ha dato soddisfazione vedere come il libro è stato letto e ha sollevato discussioni nell'ambito della seconda generazione di russi immigrati. Mi hanno invitato in numerosi posti che non avevo mai avuto occasione di visitare per avere un dialogo su questo romanzo. Per quanto riguarda la domanda se c'è una critica politica e sociale nel mio romanzo, sì, ce n'è una nei confronti di coloro che sono arrivati negli anni 50, principalmente gli immigrati dal Nord Africa, dai paesi arabi, costretti a diventare israeliani e a cancellare la loro identità medio orientale. Dopo 40 anni hanno costretto nel melting pot israeliano, nella stessa maniera, coloro che arrivavano dall'ex Unione Sovietica. Quindi c'è una satira e una critica a coloro che non hanno saputo cambiare questa catena di incomprensioni che prosegue nell'accoglienza degli immigrati in Israele. C'era e c'è sempre stato un tentativo di costringere all'etica di Israele coloro che arrivano da fuori, invece che ascoltare quello che gli stranieri potevano e possono portare nel paese. Per quanto riguarda in modo specifico l'immigrazione dalla Russia, poi, c'è una sorta di invidia, di antagonismo, perché gli immigrati che arrivavano dalla Russia erano colti e si erano integrati abbastanza rapidamente. Nonostante questo, a livello culturale la comunità di immigrati russi rimaneva chiusa in se stessa. Quello che succede, ed è successo nel passato in Israele, è che i matrimoni misti riescono a superare questa barriera. È un processo molto lento e l'alienazione nel frattempo è molto problematica. Ogni volta che mi capita di incontrare e di intervistare uno scrittore israeliano, non so, Amos Oz, David Grossman, ma anche i tuoi contemporanei come Edgar Keret, mi dicono sempre che l'essere israeliano li influenza moltissimo nella loro scrittura, in quello che scrivono e in come scrivono, per il tipo di identità e di vita che fanno. Nel tuo caso è così? Cioè l'essere israeliano ti influenza, credi che ti influenzi in modo particolare nella scelta dei temi che tratti e nel modo in cui scrivi o no? La risposta è sì. È un paese, Israele, al quale non puoi restare indifferente. Entra nel tuo spazio, perché il suo spazio pubblico è talmente forte che penetra ovunque. Vi do un esempio. Qualche anno fa, per 3 mesi, sono rimasto senza la patente e ho dovuto quindi usare i mezzi pubblici o cercare passaggi. Credevo fosse un dramma restare senza la patente. Invece ho scoperto un tesoro inaspettato. Muovendoti con i mezzi pubblici, non fai altro che sentire gente che racconta le cose più private al cellulare, ovunque. E quindi ho sentito di uomini che venivano mollati dalla moglie in diretta, storie di Shoah, segreti militari raccontati nel mezzo del vagone, problemi di eredità, cose di ogni tipo. Un vero paradiso per un racconto storico. Quindi, assolutamente sì, il posto dove vivo mi influenza profondamente. Potrei dire quasi che non so se sarei uno scrittore se non fossi uno scrittore israeliano. Questo era Eshkol Nevo, ora in libreria con Soli e Perduti, pubblicato da Neri Pozza. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. Lui è sicuramente uno dei giallisti o dei noiristi, insomma fate un po' come volete, più amati in Italia. È Maurizio De Giovanni. È autore di diverse serie, diciamo prima fra tutti quella che l'ha lanciata è la saga del commissario Ricciardi, che è ambientata a Napoli, diciamo durante il fascismo. Alcuni titoli con il commissario Ricciardi: Il posto di ognuno, L'estate del commissario Ricciardi, Per mano mia, Il Natale del commissario Ricciardi, Vipera, Nessuna resurrezione per il commissario Ricciardi, e poi Anime di vetro, Falene per il commissario Ricciardi. Insomma, ce ne sono diversi. Nel 2012 De Giovanni ha scritto anche un noir ambientato, diciamo, nella Napoli contemporanea, ha lasciato un po' il periodo del fascismo. Questo libro si intitolava Il metodo del coccodrillo e vedeva come protagonista un nuovo personaggio, l'ispettore Lo Iacono. Questo ispettore Lo Iacono è diventato poi a sua volta un personaggio seriale, perché guida un gruppo di diciamo poliziotti che vengono chiamati Bastardi di Pizzo Falcone, quindi da qui la serie dei Bastardi di Pizzo Falcone. Allora, alcuni titoli di questi romanzi: Buio per i bastardi di Pizzo Falcone, Gelo per i bastardi di Pizzo Falcone, Cuccioli per i bastardi di Pizzo Falcone, tutti pubblicati da Einaudi. In particolar modo quest'ultimo romanzo, Cuccioli, ha un, diciamo, è un giallo dalla scrittura piuttosto asciutta, ritmata. I poliziotti, questi famosi appunto bastardi di Pizzo Falcone, diciamo che hanno in passato avuto dei problemi, non sono molto amati nel quartiere in cui operano. In questa puntata, in questo romanzo Cuccioli, si seguono due storie parallele. Una neonata viene abbandonata vicino al commissariato e dall'altra parte c'è un cagnolino che viene sottratto al suo padrone, e poi altre misteriose sparizioni di animali, diciamo così, di strada. In realtà, in nessuno dei due casi c'è stata una denuncia, perché gli abitanti del quartiere sono ancora un po' restii a fidarsi dei poliziotti di Pizzo Falcone. Vi diciamo anche che sui bastardi, dalla serie dei bastardi di Pizzo Falcone, sarà tratta anche una serie TV che è prevista per l'autunno del 2016. Sono appena iniziate le riprese e l'ispettore Lo Iacono sarà interpretato da Alessandro Gassman. Dunque, diciamo che dopo la serie del commissario Ricciardi, ormai i fan di De Giovanni aspettano sempre con ansia anche le nuove puntate della serie dei bastardi di Pizzo Falcone, come racconta lo stesso De Giovanni al microfono di Marta Cagnola. Sì, comincia a essere così anche per i bastardi. Prima, quando usciva qualche libro dei bastardi, mi chiedevano quando usciva Ricciardi. Invece adesso, per fortuna, noto che c'è una certa affezione, c'è un certo seguito anche per i bastardi. Questa è una cosa che mi fa molto piacere, perché io mi diverto molto a scrivere entrambi, quindi va bene così, vuol dire che finché piace alla gente potrò continuare a raccontare queste storie che mi piace molto raccontare. Alterni come le culture dei campi, uno e l'altro? Sì, esattamente, per far riguadagnare minerali al terreno io alterno le culture come si fa in agraria. Io ho una visione abbastanza artigianale della scrittura e quindi va benissimo così. Questa volta ci sono in ballo dei cuccioli, di diversi tipi peraltro. Dacci un po' di sapore di questa nuova avventura. I cuccioli sono i deboli, che nella nostra società che fa questa rincorsa economica ai massimi livelli di reddito fatalmente sono perdenti e rimangono indietro. E questo fatto chiaramente rende anche maggiore l'attenzione del narratore. Per cuccioli non sono solo i piccoli, ma si intendono anche gli handicappati o gli anziani o anche banalmente gli animali randagi. Quindi questo libro mette a raffronto queste storie con quelle dei miei bastardi, che in fondo sono imperfetti, sono feriti e sono cuccioli, quindi anche loro. Uno dei leitmotiv quando si parla di noir è: il noir racconta l'attualità meglio degli altri generi letterari. Tu, appunto, alternando le tue saghe, racconti un po' i giorni nostri e un po' viaggi indietro con il tempo. Ma è vero che si racconta l'attualità meglio con il noir? Io non credo l'attualità, io credo la strada. Io credo che il romanzo nero racconti la strada, così come la letteratura mainstream racconta gli interni. Racconta gli interni delle persone, gli interni delle famiglie, gli interni, le rotte psicologiche delle relazioni fra le persone. Il romanzo nero racconta la strada, quindi racconta anche quei lati oscuri, quei lati forti, quei lati violenti che noi temiamo ma che riconosciamo perché costituiscono una parte di noi stessi che teniamo nascosta in cantina ma che ogni tanto torna brutalmente alla luce del sole. Dicevamo all'inizio che adesso anche i bastardi cominciano a essere amati quanto il commissario Ricciardi, e ancora non è successo niente col grande pubblico confronto a quello che succederà quando arriveranno in TV. Gassman Imparato, storie, la Crescentini, storie dei tuoi romanzi, ma anche ho sentito che hai scritto apposta per la serie. Sì, ci sono tre storie originali per la serie, all'epoca stavano tre romanzi, quindi sono anche tre storie originali. Cuccioli andrà nella seconda serie, è stato acquistato per la seconda serie, quindi si pensa anche a una seconda serie. Sono molto contento, ovviamente, perché avvicinare alla lettura fasce sempre maggiori di spettatori televisivi, secondo me, è un vantaggio per tutti. In primis per una società che ha bisogno di lettori, quindi, perché se non si legge non si immagina, se non si immagina non si inventa, e se non si inventa nulla di nuovo ci possiamo aspettare. A questo proposito ti chiedo come ultima cosa un consiglio. Noi consigliamo spesso libri agli ascoltatori di Radio 24, quindi ti chiedo un consiglio d'autore. Consigliaci tre titoli da consigliare appunto ai nostri ascoltatori. Trilogia della città di K di Agota Christoph, un libro terribile, drammatico in ogni sua parte, straordinario, in prima persona plurale. Tra i grandi classici, L'amore ai tempi del colera di García Márquez, perché fa vedere come un'ossessione possa essere bellissima, come un amore possa diventare un'ossessione, ma come questa ossessione possa essere bellissima. E tra i contemporanei io proporrei La ragazza delle nebbie del mio amico Donato Carrisi, Donato è uno scrittore raffinatissimo, profondo e sensibilissimo, quindi mi piacerebbe che si avvicinasse anche a questi grandi classici, a questi straordinari autori, anche un bravissimo autore italiano contemporaneo. E Maurizio De Giovanni sarà uno degli ospiti del Nebbia Gialla Suzzara Noir Festival, la decima edizione che si terrà a Suzzara vicino Mantova dal 29 al 31 gennaio. Diciamo che è un appuntamento fisso per gli amanti del genere. Fra gli ospiti quest'anno, oltre a De Giovanni, c'è Roberto Costantini, che ora è in libreria con il nuovo giallo La moglie perfetta di Marsilio. Poi c'è Massimo Carlotto con il suo ultimo libro con protagonista l'alligatore per tutto l'oro del mondo, e poi anche Elisabetta Cametti, che dopo K, i guardiani della storia, è ora in libreria con Il regista. Fra gli altri vi cito anche, non so, Marco Buticchi, Margherita Oggero e Valerio Varesi. Tutte le informazioni per questo Festival Noir Nebbia Gialla su nebbiagialla.eu. A proposito di gialli, una mia collega di Radio 24 me ne ha segnalato uno, insomma a volte ci scambiamo consigli anche fra noi, e si intitola In fuga dalla legge di Vittorio Nessi, pubblicato da Daniela Piazza Editore, che è un piccolo, appunto, una piccola casa editrice. L'autore è un magistrato della Procura di Torino. Brevemente la trama: Fatma è una donna di origine marocchina, viene trovata cadavere nel bagagliaio della sua auto parcheggiata in una piazzola di sosta della tangenziale. Qualcuno ha anche dato alle fiamme la vettura, da qui insomma parte l'indagine. Ricordiamo il titolo: In fuga dalla legge di Vittorio Nessi. Prima abbiamo parlato del Festival Nebbia Gialla. Nello stesso fine settimana a Milano invece si svolgerà Writers. Sono incontri con scrittori, poeti, attori, fotografi, musicisti, in un clima, diciamo, decisamente informale. L'appuntamento è ai Frigoriferi Milanesi dal 29 al 31 gennaio. Quest'anno la figura ispiratrice dell'edizione di Writers è Irene Nemirovsky, scrittrice ebrea morta ad Auschwitz nel 42. Diciamo che a lei è dedicata la serata inaugurale. Poi fra gli ospiti ci saranno per esempio Hakan Gundai, che è un autore di punta della nuova generazione di scrittori turchi, e poi il poeta e saggista siriano Adonis. Fra gli italiani invece Marco Balzano, vincitore del Campiello 2015, e Tiziano Scarpa. Tutte le informazioni su writersfestival.it. Ancora appuntamenti editoriali per la prossima settimana, diciamo che è una settimana veramente ricca, l'ultima di gennaio. A Venezia, da martedì 26 a venerdì 29 gennaio, la Scuola per Librai Umberto ed Elisabetta Mauri organizza il 23° seminario di perfezionamento. È, diciamo, un importante appuntamento annuale per l'editoria internazionale. È un'occasione per approfondire diversi temi legati al mondo del libro, delle librerie, del mercato. È più che altro un incontro per gli addetti ai lavori, diciamo librai, editor e scrittori, ma da qui emergono insomma delle tendenze su cui poi tutti possiamo riflettere. E infine vi segnalo che sabato 30 gennaio saranno consegnati i premi Nonino per le varie categorie. Il premio era nato nel 77 per iniziativa della famiglia Nonino, distillatori nel Friuli Venezia Giulia, insomma i produttori delle famose grappe. È un premio nazionale e internazionale di grande prestigio, che in diversi casi ha anche, diciamo, anticipato il nome del Nobel. Vediamo le assegnazioni di quest'anno. Il premio Nonino è stato assegnato a Nati per Leggere, che in realtà è un progetto, è un'iniziativa per promuovere la lettura in famiglia, che viene portata avanti in tutta Italia da bibliotecari, pediatri, educatori, associazioni e così via. Il premio internazionale Nonino è andato a Lars Gustafsson, che è uno scrittore svedese. Alcuni titoli pubblicati in Italia, per esempio L'uomo sulla bicicletta blu e Il pomeriggio di un piastrellista. La motivazione è che il suo narrare, anche in versi, è unico, sempre ironico con se stesso. Infine, per quanto riguarda la categoria, sempre del premio Nonino, un maestro del nostro tempo, il premio è andato ad Alain Touraine, sociologo francese che si è occupato in particolare di ricerche nel campo della sociologia industriale e dell'analisi politica. È conosciuto soprattutto per aver coniato il termine società post-industriale. Anche per oggi è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, grazie in regia Gianmarco Ferronato, vi ricordo che trovate tutte le puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it e per essere sempre aggiornati potete seguirmi su Twitter. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.